Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar, eccoci qua. Eccoci qua, ritrovato. Finalmente è passata anche la Pasqua. Finalmente. Ma sì, questi giorni di vacanza non ce ne può più, bisogna lavorare, produrre pila, dai su. Ce l'hai la faccia del sofferto che ritorna dalle vacanze? Ma mi dicono che sospiro, poi gli ascoltatori mi dicono che sospiro. Ci vorrebbe un bel vitalizio per me. Beh, ho capito. Ti piace? Dovevi vivere nella prima repubblica, o meglio, no, la seconda è uguale alla prima, quindi va bene. Comunque una politica di lungo corso. Ma dai, è cambiato indirizzo su questo. Proporrei su change.org una petizione per un vitalizio per Alessandro Milan. 6.000 euro, mi è contento di... Ma anche bene, neanche piccolo, neanche modesto a dire la verità, neanche modesto. Netti, grazie. Allora, ragazzi, non so dove sia andato in vacanza, ma credo che abbia contratto qualche malattiuccia. No, ma lo sai, sono stato a Napoli, città meravigliosa. Città meravigliosa, sì. Gravata da problemi infiniti, ma città meravigliosa. È vero. Allora, oggi 29 di marzo, Simplicio e Costantino, intanto per cominciare, poi un San Guglielmo Tempier, vescovo di Poitiers, San Secondo di Asti, che in quanto piemontese mi... San Ludolfo di Ratzenburg, San Bertoldo, priore dei Carmelitani, quindi abbiamo, cioè, un po' per tutti, per così dire. Oggi tra chi fa gli anni, Terence Hill e Elle Macpherson, che per chi è della mia generazione non devo aggiungere molto, per così dire, un ideale della bellezza e della classe femminile. Sì, Terence Hill, ovviamente. No, è Elle Macpherson, cioè. Macpherson, che è incredibile a dirsi, ma rimane secondo me un modello. Vabbè, sì. Adesso chiusa parentesi, si è capito che è un debole. Si è capito che è un debole per Elle Macpherson, questo. Oscar Giannino ha un debole per Elle Macpherson. Mia moglie lo sa, quindi non sto incorrendo in alcuna sanzione, cara Margheritucci. Ecco. Hai santificato l'ultima Margherita. No, ma credo che ce ne siano due o tre che arrivano le prossime settimane. Non temere. La vedi tu, Elle Macpherson. Allora, alle 8:20 minuti, vabbè, il numero per le vostre chiamate è il solito 800 24. Ecco, 00 24. Io direi di chiedere agli italiani se si sentono sicuri. Dopo abbiamo sbeffeggiato per un po' di giorni. Che in effetti, insomma, devo dire, Bruxelles, bisogna mettere una moratoria ormai sulle notizie che vengono dalla polizia e dalla procura di Bruxelles, perché nelle 24 ore successive vengono smentite. Però anche noi, caro Alessandro, non mi pare che ce la passiamo molto bene. Dal punto di vista della sicurezza si è scoperto, insomma, che uno dei, tra l'altro, dei terroristi che si è fatto saltare se la passava per gli aeroporti italiani, neanche le frontiere, no, che non ci sono più di fatto. Proprio così, arrivava in aeroporto, arrivava a Venezia, poi andavano... Tra l'altro mi ha inquietato quello che scrive Repubblica, cioè sono passati in Italia per andare in Grecia a fare una riunione, perché l'Italia era considerato da loro un paese sicuro nel senso... Sì. Dove potevano transitare in sicurezza. Ma non solo transitare, bello, perché qui si parla anche di passaporti fabbricati dall'uomo arrestato a Salerno per la cellula di Bruxelles, passaggi da Treviso. Insomma, non so, c'è chi scrive alla stampa questi aeroporti minori italiani considerati appunto sicuri per i foreign fighters. Cosa vuol dire sicuri? Cioè, la domanda è: c'è un atteggiamento delle autorità di sicurezza nella politica dei nostri servizi, ispirata dalla politica, che dice alle cellule dell'ISA e ai loro terminali nel nostro paese e fuori? Ma insomma, noi buoni con voi buoni con noi? No, dice addirittura che è una cosa quasi fatta scientemente. O lanci questo dubbio, questo sospetto. Non lo so, io ho siccome in questo fine settimana di Pasqua abbiamo appurato, i giornali italiani tengono il silenziatore, il fatto che sull'FBI europeo è l'Italia che ha posto un veto. Questa roba io mi aspettavo di vederla trattata sui prime pagine dei giornali italiani. Pare che lo abbiamo fatto perché allo stato attuale della convergenza delle norme c'è troppo potere alle polizie e poco ai magistrati. Quindi i magistrati italiani dicono: no, così noi non siamo tutelati nella nostra indipendenza. Io non so se sia vero, perché i giornali italiani continuano a non approfondire questo tema. Ma io non lo so, so che scrive oggi il Corriere: abbiamo stanziato altri 300 milioni per i beni culturali, per la sicurezza nelle zone dei beni culturali. Capodimonte, io ero a Napoli, straordinario Capodimonte, ma anche Brera, Milano, gli Uffizi a Firenze, il Colosseo a Roma. Intanto di certo c'è che abbiamo stanziato altri 300 milioni di spesa per i prossimi 3 anni. No, vorrei solo, Oscar, che la gente non misurasse la sicurezza negli aeroporti dicendoci: ma io sono arrivato a Venezia con lo zainetto e nessuno mi ha controllato. Il controllo va fatto a tutti, però no, non credo che non distinguano un turista col quale fare dei controlli, diciamo, di livello, come dire, da 0 a 10, 3 o 4, dal potenziale terrorista. La famigliuola che passa forse ancora può essere fatta passare con un controllo più ridotto rispetto a quelli che invece vanno a colpire, no? No, il problema è se noi abbiamo, per così dire, un atteggiamento, come bisogna dire, di distinta durezza rispetto alle dichiarazioni in quanto parte di una strategia nazionale. Ma è interessante quello che dici, cioè tu stai dicendo che in realtà a parole facciamo i feroci, ma noi neanche a parole facciamo i feroci. Se badi bene alle parole scelte da le più alte responsabilità istituzionali e politiche del nostro paese, noi abbiamo parole molto misurate. Misurate. Ci scrive un ascoltatore: sembra essere tornati ai tempi di Arafat o agli accordi con Andreotti, la politica craxiana, no? Legata anche allo sguardo sul Mediterraneo. Caro ascoltatore, all'epoca era diverso, perché Arafat e lo stato maggiore dell'OLP erano, tra virgolette, laici che avevano studiato in Occidente, per così appunto dire, e quindi era più facile interfacciarsi con loro. Qui stiamo parlando di tutt'altro. Però, secondo me, il dubbio è un po' legittimo, per così dire. Un dubbio legittimo. C'è anche il dubbio che si può dire su questa cosa di Lahore. Guarda, oggi Avvenire lo dice: strage a matrice islamista, no? Perché torniamo sempre alla solita questione di far finta che la religione abbia un ruolo marginale, secondario. Sì, in questo festival di Pasqua giornali come Giornale Libero sono molto scagliati contro il più dell'informazione, dicendo qui l'Islam sparisce sempre, diventa fondamentalismo, ma è un po' è vero però anche questo, cioè c'è un riflesso condizionato che tende tra il politicamente corretto e la paura della reazione, perché poi secondo me è più il secondo aspetto del primo. Per esempio io ho sentito Lilli Gruber dire: no, il politicamente corretto deve tornare perché insomma altrimenti il linguaggio, ma non è questione secondo me di linguaggio, è questione che però non si può neanche far finta avere le fette di salame sugli occhi, se si può dire salame, perché anche questo, perché incorriamo oramai anche lì nella cosa del politicamente scorretto. Esatto. Cioè c'entra, no? È una questione anche c'entra religiosa. No, ci mancherebbe altro, non mi pare che sia. Non abbiamo, siamo alle prese. Insomma, c'è un po' una rimozione da questo punto di vista. Ma è una rimozione che la dice lunga sul complesso, per così dire, di inferiorità che vive l'Occidente, cioè lo smantellamento dei propri valori, perché di questo si tratta, lo smantellamento dei nostri valori, che non sono quelli dell'imperialismo colonialista, ci mancherebbe altro, perché lì sono errori ampiamente ammessi come tali, tranne che da minoranza. Il problema è quello che c'è una questione che si chiama libertà, diritti fondamentali dell'uomo, diritto alla vita che non sia imposto da codici religiosi. Ecco, questo è qui c'è uno smantellamento forte. C'è un'altra questione, per esempio, a me ha colpito che in Egitto, no, la vicenda di Regeni, Giulio Regeni, di cui si è detto, si sono date delle versioni più incredibili all'Egitto. Ora vedi che comincia a emergere sui giornali anche questa linea: non è il momento di fare business con l'Egitto, sì, di fare affari con l'Egitto. Guarda che secondo me questa non è una questione secondaria. Per esempio il Movimento 5 Stelle l'ha posto come questione a livello globale, a dire: non dobbiamo più fare affari con quei paesi che finanziano l'ISIS, che poi sono l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati. No, aspetta, l'Arabia Saudita e il Qatar finanziano altre frange, quelle anti-ISIS dell'estremismo islamista e sunnita, ma anti-ISIS. Cioè il problema è se diventa: non facciamo più affari con nessuno. No, ma i 5 Stelle questo dicono: non dobbiamo fare affari con nessuno di quelli che finanziano fazioni in armi islamiste. Questo è quello che dicono, tra cui appunto Arabia Saudita, Qatar e così via. Per carità, cioè io capisco che il tema è molto delicato, però è un tema forse che va affrontato come un tema di politica che andrebbe affrontato. L'Occidente dovrebbe darsi una linea su questo, questo è evidente, perché l'Occidente in realtà è diviso tra chi fa più affari con questo e con quello, questo è il punto evidente, cioè tra noi e la Francia c'è una gara perché per il momento hanno vinto i francesi su chi faceva più affari con l'Egitto di Al-Sisi, è così. Il problema è questo, che se rimani da solo a prendere una decisione del genere rimani l'unico che come non sempre, fa affari, esattamente. Come sempre, l'Europa unita. A va proposito bene, di smantellamento, ecco. Questo è. Tra l'altro ci chiama Bruno da Milano. Buongiorno Bruno. Buongiorno dottore. Eccoci. Buongiorno. Io le chiedo scusa, però ho telefonato e volevo chiamare anche qualche giorno fa perché ho un quesito da porre, un quesito che magari può rimanere senza risposta. Io non capisco perché dopo tutti questi episodi che hanno interessato Parigi, che hanno interessato Bruxelles, che interesseranno spero mai altre località, non c'è stato da parte dei mass media, ma probabilmente perché non c'è l'episodio classico, non c'è stato nessun imam, nessun musulmano, nessun esponente del mondo islamico di un certo livello che si è in un certo qual modo dimostrato contrario a tutto quello che è successo. Beh, non è proprio così, ci sono dei leader che hanno espresso il loro sdegno, anche tanti, è chiaro che non fanno forse notizia, però Oscar, aspetta, qui c'è una notizia. Dobbiamo dare una notizia che sì. Viene battuta dalle agenzie in questo momento, è abbastanza clamorosa insomma. Perché un Airbus dell'Egyptair con 55 passeggeri a bordo sarebbe dirottato, anzi è stato dirottato, lo riferiscono fonti aeroportuali del Cairo, da Alessandria d'Egitto verso Larnaca, Cipro. Esatto. C'è un, secondo le agenzie, un dirottamento in corso. L'aereo è della compagnia Egyptair, quindi è la compagnia di bandiera egiziana, 55 passeggeri a bordo, è stato dirottato da Alessandria d'Egitto verso Cipro. Al momento non ci sono ovviamente ulteriori informazioni riguardo a questa notizia, però come al solito che ne usciranno ti informiamo i nostri aggiornati. Vabbè, ma però tu hai lanciato questa cosa del dire quasi una scelta politica di quella di non volere stuzzicare, diciamo così, no? Sulle azioni congiunte dell'Occidente, come evidente, abbiamo una linea diversa. Noi non stiamo colpendo l'ISIS in Siria e Iraq, abbiamo 4 tornado che fanno ricognizione elettronica, punto. Sulla Libia ci ostiniamo a dire in pubblico che la questione è un governo libico, come è evidente, e si è visto in questo fine settimana di Pasqua, il tentativo di dare una credibilità vera a un governo di convergenza, doveva, ha tentato di andare a Tripoli il candidato del governo di convergenza, non lo hanno fatto scendere perché le milizie erano intorno all'aeroporto ad aspettarlo, quindi se uno lo prende sul serio la posizione italiana si appiglia a nulla perché non c'è una prospettiva politica di questo tipo, quindi significa rinviare. Nel frattempo sul campo ci sono i britannici, i francesi e gli americani, come sappiamo. Io mi limito a mettere in fila tutte queste cose, se le metti in fila è ovvio che sono una posizione politica che lancia dei segnali verso quel mondo, come dire noi non siamo quelli che vi colpiscono. Mannaggia, ma sai che quello che pensano alcuni è proprio che si vada a colpire per esempio in Francia, perché la Francia ha un ruolo attivo, si va a colpire nei paesi che c'è una forza delle comunità che deriva dal passato magrebino, l'impero coloniale eccetera eccetera, che qui non c'è. Però il problema è se noi qua abbiamo punti di sostegno logistico e non solo logistico e lo apprendiamo dalle indagini degli altri, beh, non è che la cosa mi rassicuri. Questo è vero. Anche l'uomo fermato a Salerno, per esempio, è stato arrestato su richiesta di mandato d'arresto belga. Cioè, noi prima di alzare la voce ridendo sulle falle degli altri, da questi ultimi giorni, dagli sviluppi di questi ultimi giorni, abbiamo di che dire. Guardiamoci allo specchio e poniamoci il problema. L'intelligence italiano ha tutto quello che serve, virgola. Oppure è il segnale politico di dire, insomma, lasciamo qualche margine di grigio purché sia certa, più certa l'Italia di non subire danni? Ecco. Allora, diamo il numero di telefono, poi andiamo un attimo in pubblicità. Oggi parleremo anche un po' di università, tra poco. 800 24 00 24. Vi daremo anche gli aggiornamenti su quello che sta succedendo, dicono le agenzie, a Cipro. Un Airbus con 55 persone a bordo della compagnia Egyptair, partito da Alessandria d'Egitto, è stato dirottato, dicono le agenzie, verso Larnaca a Cipro, nell'isola di Cipro. Questo dicono le agenzie, state con noi. Allora, caro Oscar, sono le 8:36 minuti. Che aggiornamenti ci sono da Cipro? Eh sì, dobbiamo dare questo aggiornamento. È atterrato a Cipro l'aereo che sarebbe stato dirottato, partito da Alessandria d'Egitto, della Egyptair, e atterrato con 54 persone a bordo a Cipro. E tra l'altro si crede, così dicono le agenzie, che a bordo uno dei passeggeri sia armato. Comunque non ci sono ancora riconducibilità di questa vicenda. No, poi si crede che sia armato, insomma, lo dice Al Jazeera, diciamo che ci sarebbe un dirottamento in corso, ecco, questo è una persona armata a bordo. Questo almeno, almeno dalle prime informazioni d'agenzia. Ci chiama Enrico da Milano, buongiorno Enrico. Buongiorno. Eccoci. Ecco, dopo l'ultimo fatto gravissimo di Lahore, io sono due notti che non dormo, diciamo che penso e dormo, sì. E io mi sono chiesto, ma se queste persone che si fanno esplodere, se i resti di queste persone, dei kamikaze, venissero messi a bagno nel sangue di maiale, colui che si fa esplodere, i propri resti vengono messi a bagno nel sangue del maiale. Perché, ma i musulmani... Ma perché? Questo per disprezzare questa cosa? Cioè... No, per disprezzare, perché per che cosa? Per farle esistere, perché i musulmani, quando queste persone si fanno esplodere, o quando un musulmano muore, i resti, il corpo, o addirittura i resti nel caso di un'esplosione, sì, vanno, le deve solo toccare un musulmano. Perché anche i resti per loro sono... cose importantissime che possono, non lo so, insomma, secondo la loro religione. Se uno dice, se perlomeno in Europa colui che si fa esplodere deve sapere che i propri resti biologici vanno, saranno messi a bagno nel sangue del maiale. Metteremo questa proposta agli atti del Parlamento europeo. Insomma, la ringraziamo per questa sua telefonata. Mi sembra, come dire, un po' estrema come sì, reazione. Anche perché credo, guardi, che non discuterebbe proprio nessuno, sarebbe solo infatti argomenti ulteriori, esatto, per dire che siamo matti come loro, esatto, dire la verità. Comunque, insomma, diciamo che sono diventate 62 le persone a bordo, intanto, dell'aereo Egyptair, secondo un'altra agenzia, dirottato, costretto ad atterrare all'aeroporto cipriota a Larnaca. Vi terremo aggiornati, ma dobbiamo parlare di università. Noi dobbiamo, Oscar, parlare di università, perché abbiamo alle spalle, nella scorsa settimana, diverse vicende che sono intrecciate, no? Da una parte il fatto che dei rettori hanno detto: beh, è sicuro che le conferenze di orientamento che facciamo con gli studenti per spiegare loro quali siano gli indirizzi che mettiamo a disposizione delle famiglie, insomma, arrivino queste famiglie in cui i papà e le mamme accompagnano per manina i loro bimbi, per così dire. I loro bimbi diciannovenni. E questo un po' dice lunga. Io lo considero un'ulteriore coda di quello che abbiamo visto con i docenti, i genitori del Virgilio. Abbiamo parlato prima di Pasqua. Insomma, un po' cambiato l'atteggiamento, che, no? Che hanno scritto molto arrabbiati, dicendo: avete dato spazio alla preside. Veramente abbiamo dato spazio anche a un genitore del Virgilio che ci ha chiamato, tra l'altro, Riccardo Maggi, radicali, che no, però, era contrario alla vicenda. Allora, ma vabbè, questo è un aspetto. Poi altro aspetto, il resto, Calidano già scrive un editoriale sul Corriere della Sera, dice: beh, in questi anni, per via del turnover e del fatto che quindi il blocco del turnover nel pubblico impiego anche in università, però insomma c'erano più docenti avanti negli anni, evidentemente nelle materie umanistiche, e allora noi stiamo registrando un calo percentuale molto forte, dice Ernesto Calè della Loggia, nelle materie umanistiche, storia, filosofia, eccetera, a vantaggio soprattutto di ingegneri, economisti, giuristi. Ma è un male, perché è un male, dice Ernesto Calè della Loggia. Cioè, un male avere più ingegneri, diciamo, docenti del campo scientifico, mettiamo così, rispetto al campo umanistico. Sì, diceva, male nel senso, male relativo, ecco. Ma relativo, perché significa che quella lobby conta di più, già contrai più politicamente il MIUR, adesso contrai più anche l'università, e poi è un male culturale, diceva Ernesto Galli della Loggia, perché significa abdicare a una forte impronta umanista. Ma se il futuro è la scienza. E quindi il dibattito scienza. È, ma non è che noi avevamo guai perché ci siamo un po' troppo di umanisti, un po' meno a essere giornalisti troppo sintetici, perché così i professori universitari ovviamente ci dicono che siamo dei cialtroni, però per essere chiari c'è questo altro tema messo sul campo. Comunque, diciamo, colui che ha scatenato la polemica contro i genitori, mettiamola così brutalmente, è il rettore del Politecnico di Milano, che è il professor Giovanni Azzone, è già stato con noi in passato. Buongiorno professore, ben ritrovato. Buongiorno a voi e gli ascoltatori. Che fastidio le danno intanto i genitori che portano per manina, per manina. Sei solidale con i genitori. Ma se mia figlia ha 10 anni e mio figlio 8, sarà un problema. Io sono futuro. Contrario invece. Io che, sono problema, che problema le danno? Anche mio figlio ne ha 8, quindi non ho la controprova. Ecco. Non è il problema che vengano ad accompagnare i figli, che già potrebbe essere messo in discussione, è che vogliono entrare in aula a sentire le presentazioni, spesso togliendo spazio ad altri ragazzi. Questo lo ritengo veramente un pochino eccessivo. E anche l'osservazione che a volte mi viene fatta del tipo: ma i ragazzi se no potrebbero scegliere la via sbagliata, credo che sia un po' quello che riassume tutto. Cioè, se a 19 anni non sei ritenuto in grado di poter scegliere il tuo futuro, è difficile presentarti poi sul mondo del lavoro 3 o 4 anni dopo dicendo che sei la persona che può risolvere i problemi del paese. Insomma, vengono trattati da bamboccioni, dai, lo dica professore. No, un po' da diciamo che abbiamo una voglia di proteggere i nostri figli forse un pochino eccessiva, senza capire che forse è il modo più sbagliato per preparare il futuro. Comunque, secondo me questo spiega in maniera rilevante il fatto che noi abbiamo una partecipazione bassissima nella componente giovanile al mercato del lavoro. Cioè, questo aspetto qua, le famiglie continuano a dire: oh, ma chi sei tu che dici che mio figlio deve lavorare a 19 anni? Guarda, io almeno nella mia attività di giornalista incontro tantissima gente che dice: oh, ma che cos'è questa storia? Ci andranno i tuoi figli a lavorare, diciamo, non come, i miei. Come se fosse una cosa negativa. Io mentre, dico, se la prendete così, la cultura americana è assolutamente positiva. Anche tedesca. Però, professor Azzone, molti dicono: beh, ma quei genitori pagano fior fior di rate, quindi voglio vedere il loro investimento, proprio perché i giovani non lavorano, molti, dove va a finire? Diciamo, se vuole, che quando uno deve investire per il figlio che va a Stanford o all'MIT $50,000 l'anno, è una scelta che si fa una volta nella vita. Le università pubbliche italiane hanno delle rate un pochino più basse, quindi diciamo anche il livello di rischio familiare è un rischio un pochino più contenuto, ce lo possiamo permettere. Insomma, cari genitori, lasciate i vostri figli scegliere liberamente, sono esseri senzienti e pensanti e quindi possono a 19 anni assumersi la responsabilità. Avete altre sedi per contribuire nel dibattito, nell'evoluzione, piuttosto che andare lì e mettersi a sedere come se... No, questo... Ma nel senso che li vede più attivi dei ragazzi stessi? Ma devo dire, adesso come sempre le generalizzazioni sono difficili, no? Perché poi abbiamo un numero di genitori che sta crescendo, ma non abbiamo più genitori che ragazzi, per fortuna, perché i ragazzi ci sono in numero significativo. Devo dire, quello che stiamo un po' percependo è proprio questa voglia di protezione che tende a esagerare e va esattamente in direzione opposta di quello che invece noi richiediamo ai ragazzi. Quando noi facciamo orientamento, diciamo, non ci interessa avere tanti studenti al Politecnico, ci interessa avere tante persone che hanno capito che questo è il luogo migliore per sviluppare la propria capacità professionale. Professore, ma posso fare un'obiezione su questo? Certo. Voi lo fate, altre università lo fanno, però in generale in Italia per l'orientamento non c'è un grande portale pubblico scelto come via maestra in cui comparare per ogni università, visto che viviamo la finzione che il titolo uguale per conseguito dovunque, sappiamo che non è così, il mercato valuta, il vostro non vale come quello di un'università di ingegneria altrove. Detto questo, però un portale che dicesse: chi si è iscritto qui entro X dal conseguimento del diploma e della magistrale ha ottenuto il lavoro con questo salario medio a questa distanza di tempo, eccetera eccetera, una cosa che consentisse a tutti di fare comparazioni oggettive di dove conviene davvero per la domanda di lavoro mandare. Questo è un tema, è un altro tema, devo dire, molto... però rispetto al passato c'è molto di più, non c'è il portalone unico nazionale, ma ormai sui portali delle università i dati ci sono, c'è scritto dove sono stati ricavati. Quindi anche qua lo studente a 19 anni non deve essere quello che ha la pappa pronta, legge la tabellina e dice questo è primo, questo deve secondo. Informarsi. Oggi credo che lo studente si possa informare. E su quindi, quello magari i genitori lo aiutino se non è sgamato, diciamo così. Io credo che esista un problema ancora di certificazione dei dati comparati. Quelli che date voi non sono quelli che danno altre atene in Italia, credo che lei lo sappia meglio di me. Quindi sono d'accordo. Ecco. Diciamo, però tra il nulla e il se vuole, l'ottimo è nemico del bene, quindi secondo me rispetto al passato la strada è comunque c'è un meglio. Però professor Azzone, noi vogliamo presentare anche ci sono altri ospiti, devo dare anche un aggiornamento Oscar sul dirottamento, perché secondo sempre Al Jazeera questo aereo dirottato avrebbe a bordo un kamikaze, cioè una persona con un corpetto esplosivo. Sempre a proposito di sicurezza aerea, cioè secondo la TV Al Jazeera un passeggero è sospettato di portare una cintura esplosiva a bordo di questo aereo che è atterrato a Cipro. Cioè, si può ancora passare con una cintura esplosiva in un aeroporto, entrare su un aereo, evidentemente. In un paese che ad alto coefficiente di rischio, con un regime militare. La questione invece universitaria. Allora, il professor Azzone, ovviamente rettore al Politecnico, materie scientifiche. Allora, vogliamo salutare Andrea Giardina, che presiede l'Istituto Italiano per la Storia Antica e presidente della Giunta Centrale per gli Studi Storici. Professor Giardina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il tema Galli della Loggia, che diceva prima Oscar Giannino, e qua abbiamo il professor Azzone. Allora, si è dato troppo spazio alla cultura scientifica in Italia? Ma guardi, io non è difficile fare l'esegeta dell'articolo di Galli della Loggia, perché... gli riconosciamo tutti una grande limpidezza di espressione, sono articoli molto chiari, molto lucidi e sempre molto acuti. Lui non imposta una contrapposizione tra saperi, diciamo così, umanistici e saperi scientifici. Parte da una ricerca condotta da un altro storico, non so perché gli storici sono stati più attenti di altri a questo fenomeno, che è Andrea Zannini, che è sul sito di un organismo indipendente che si occupa di problemi dell'insegnamento, dell'università, ha pubblicato dei dati con un commento molto leggero, molto, diciamo, ha fatto parlare soprattutto i numeri, e sono impressionanti e non riguardano un decremento, che pure c'è evidentemente, delle materie umanistiche rispetto a quelle, possiamo dire, scientifiche, per usare una... così, una distinzione piuttosto semplice, perché la vera distinzione è tra materie che hanno un sapere di carattere umanistico certamente, ma astratto, la filosofia, la matematica e altre scienze esatte che non sono adeguatamente utilizzabili o utilizzate dall'apparato produttivo, e invece quelle scienze che lo sono, accanto ad altre come la pedagogia, se volete possiamo parlarne. Quindi è una distinzione un po' più complessa e, se vogliamo, ancora un po' più grave di quella a cui siamo stati abituati fin da anni lontani. Abbiamo letto tutti il libro Le due culture, no, che ha formato un'intera generazione. No. E quindi il problema è proprio questo, è la quantità di risorse che si vengono destinate ai saperi astratti, sì, di cui le discipline umanistiche sono una parte, e invece le risorse che vengono destinate a materie come ingegneria o... Ma non è che vengono destinate più lì perché lì c'è il futuro, lì c'è il futuro... Ma questo è limitabile, ha ragione, no, questo è limitabile, questo è normale che sia così, non bisogna fare polemiche così, per il gusto... Noi, è normale, in tutti i paesi del mondo sono ricerche più costose, hanno delle ricadute economiche, questo è normale, sì. Il problema sono le dimensioni del fenomeno. L'articolo di cui parte Ernesto Galli della Loggia, che è l'articolo di Andrea Zannini, si intitola con titolo eloquente Storia moderna, fine corsa 2031. Cioè nel 2031 storia moderna... Con questi ritmi, dice Andrea Zannini, nel 2031 non ci sarà un solo addetto, diciamo così, per usare questa espressione, non un solo ricercatore, non un solo professore associato, non un solo professore ordinario dell'università che insegna la storia moderna. Beh, effettivamente, messo così come allarme, Oscar, non è bello, perché non è che bisogna perdere alcuni... Io non ho capito una cosa. Siccome la ricerca di Zannini si fonda sugli effetti del turnover, allora, gli effetti del turnover non sono stati scelti dall'alto, come se ci fosse una logica per la quale le materie astratte, no? Rispetto a quelle applicative economiche vengono considerate prioritarie da una deviante mente politica dall'alto. Non è così. Gli effetti del turnover sono avvenuti per effetto del fatto che a essere più vicini al conseguimento dei minimi per il trattamento pensionistico era una percentuale più elevata di docenti in quelle materie, no? Allora, adesso io voglio capire una cosa. Discutiamo di come rimpinguare gli organici dei professori di storia e filosofia, che è un conto, o distinguiamo, oppure stiamo parlando di una scelta dall'alto, che secondo me non c'è stata e che per certi versi rispetto a come erano i pesi nell'università italiana capirei pure. Invece, ecco, questo secondo me era un'ambiguità nell'articolo del professor Ernesto Guaglia oggi, che conosco, stimo da tanti anni, però in effetti non si capisce. Per esempio, il professor Azzone, il rettore del Politecnico, pensa che ci sia stata una scelta a favore delle aree di insegnamento come le vostre rispetto a quelle di, invece di discipline astratte? Chi l'avrebbe mai fatta questa scelta, professor Azzone? No, diciamo, i meccanismi non hanno agito in questo senso. Ricordo anche una cosa, che se noi guardiamo l'andamento delle immatricolazioni nell'ultimo decennio, c'è stato un lieve aumento delle immatricolazioni nelle scuole, nelle facoltà scientifiche, e un calo, io in mente, tra il 20 e il 25% in quelle umanistiche. Il che vuol dire che poi i sistemi interni all'università, che oggi hanno bisogno, per garantire l'accreditamento, di legare docenti a numero di studenti, si sono comportati di conseguenza. Quindi credo che questo sia stato un fenomeno, se vuole, abbastanza naturale di adeguamento del corpo docente a un'evoluzione degli studenti. Faccio un'altra considerazione. Quando noi parliamo di organici in Italia facciamo riferimento ai settori scientifico-disciplinari, che sono delle classificazioni del sapere enormemente ristrette e che ci sono solo in Italia. Per cui quando parliamo di organici necessari per un certo tipo di disciplina, se guardiamo un po' al sistema internazionale, non dovremmo, credo, distinguere tra gli storici di un periodo molto ristretto oppure gli ingegneri che si occupano di una disciplina molto ristretta, ma guardare in modo un pochettino più ampio. Tra l'altro, diamo un aggiornamento anche per quello che sta succedendo in Egitto. C'è stata la conferma poco fa da parte di Egyptair, cioè la compagnia di bandiera egiziana, che il volo MS-181 da Alessandria d'Egitto è stato dirottato. E a bordo è stato portato a Larnaca in Cipro, e a bordo ci sarebbe un kamikaze, questo secondo Al Jazeera, cioè una persona con una cintura esplosiva. Però al momento, ancora non sappiamo nulla. Oltre a 62 passeggeri, ovviamente. Caro Oscar, noi abbiamo chiamato però anche un professore che insegna storia e filosofia al classico a Treviso. Qualche tempo fa l'avevamo già chiamato perché aveva ospitato, aveva aperto a sé la propria casa a 6 giovani profughi di Nigeria e Gambia. Si chiama Antonio Silvio Calò. Buongiorno professore, ben ritrovato. Buongiorno. Però buongiorno, la chiamiamo per un altro motivo. È vero che lei ha scritto un libro per orientare i giovani a come scegliere l'università? Ce ne sono tanti, sì, per la verità. Cioè, Il mio comunque non è un libro inteso nel senso scientifico del termine. Vorrei dire subito che il libro nasce dall'esperienza di centinaia e centinaia di colloqui con individuali, con i ragazzi, con gli studenti, sì, e riporta al centro la persona con le sue aspettative, con i suoi interessi, il ragazzo a 360 gradi, uno sguardo su tutta la persona, non su quello che ha fatto a livello scolastico, a livello di liceo. Quindi l'ha sentita la polemica, il professor Azzone che dice sono troppo orientati dai genitori, lei lo riscontra questo? Sono d'accordissimo con il professor Azzone. Il problema fondamentale è che però purtroppo manca un coordinamento tra la fase di uscita dal liceo e la fase di entrata presso l'università. Perché il rischio è che noi partiamo da un presupposto che l'università, io continuo a dire, l'università è comunque un'eccellenza, se no non è un'università. Sì. E quindi deve essere per forza inevitabilmente una selezione, ma nel senso buono del termine, non è una selezione nel senso del limitare le persone, è una selezione nel senso di portare comunque le persone a una dimensione, diciamo così, di consapevolezza di una scelta. Sì. Questo per me è fondamentale, questo per me è fondamentale. Quindi il mio libro nasce con l'idea di poter dare questa consapevolezza ai ragazzi, facendo emergere ciò che è specifico e valorizzando questo specifico. Volevo fare un'attenzione velocissima, è questo. Ricordiamoci una cosa, che In Italia il problema universitario è dato dai dati che sono, lasciatemi dire senza polemica, fallimentari per ciò che riguarda l'orientamento. Se io ho... Però si fermi qui, professor Calò, si fermi, perché sennò sarà tema nel caso di un'altra puntata, sennò sforiamo e poi ci picchiettano con la frustina. Allora, continuate a seguire Radio 24 anche per vedere gli sviluppi in corso di questo dirottamento attualmente a Cipro. Speriamo bene, caro Alessandro. Eh sì, eh sì.